Voilà. Chissà se mi sentite, io forse mi sento. Benvenuti, benvenuti. Vorrei dire, caro amico, ti parlo, invece caro amico ti scrivo, perché caro amico ti scrivo ci ricorda quella bellissima canzone di un autore grandissimo che è scomparso e che noi abbiamo avuto così la possibilità di intervistare poco prima della sua partita verso altri mondi e altre dimensioni. Beh, allora cominciamo. Questa sera abbiamo, come potete vedere dall'orologio, se siete all'ascolto, se siete rimasti fino a questo momento all'ascolto e avete resistito alla tentazione di spegnere la radio perché, bah, qui non funziona niente. Beh, in realtà abbiamo avuto qualche problema perché, sì, oggi, a parte che iniziamo per noi, quindi io vi auguro intanto buon anno, io e anche a me vicino Fiordaliso. Buon anno, in effetti. E a parte il fatto di augurarvi buon anno, beh, abbiamo una nuova regista in questo momento e quindi diciamo così, una sostituta, insomma, qualcuno che ci ha salvato, che ci sta rendendo possibile questa trasmissione che in realtà non sarebbe stata possibile per l'assenza di Danny M e udite, udite anche di Mary D, come avete intuito dal fatto che ho cominciato io la trasmissione invece che la nostra solita Mary D e quindi saluto Ciao a Cristina alla tutti, regia. buonasera. Ma hai detto qua, cari amici, cari amiche? No, non ho detto cari amici, cari amiche, perché questo lo lascio a Mary D. Io dico, caro amico, ti parlo. Ah, va bene. Dobbiamo dire cari amici e cari amiche? Finalmente questa soddisfazione, no? Cioè. Vada, vada pure. Cari amici, cari amiche, eccoci stasera in radio! È finita così? Scusa. Cominciamo in radio poi? E poi vi abbiamo portato un sacco di cose. Sì, ci avete portato un sacco di cose e queste cose, un sacco di cose. Abbiamo portato un sacco di cose questa sera. Sì, come Babbo Natale nel sacco abbiamo portato un po' di eventi, se avremo il tempo di raccontarveli, ve li raccontiamo. C'è Cristina Bove che raggiungeremo per telefono con l'aiuto di nuovo Del padre dell'etere, questa entità nascosta che ci fa soffrire. Il padre dell'etere, e vabbè, il padre dell'etere è qualcuno che noi invochiamo continuamente perché in realtà ci serve. Senza di lui non riusciamo a fare assolutamente niente. E quindi sì, in effetti hai enunciato Cristina Bove. Cristina Bove che se non ricordo male già abbiamo avuto su questi microfoni. Ricordo male? No. Che cosa parlavamo l'altra volta? Sicuramente di poesia, ma anche di arte, perché comunque avremo come ospite un'artista poliedrica. Bene. Allora, ecco, allora, la nostra prima puntata di me e di Fiordaliso, come sapete la settimana scorsa invece c'era Mary D ai microfoni, noi non c'eravamo, adesso ci siamo dati il cambio, questa volta non c'è Mary D, ci siamo noi. E insomma, come avevamo detto all'inizio, cogliamo l'occasione per augurarvi buon anno, che sia un anno 2014 un po' migliore, devo dire, del 2013. Per molti di noi è stato un anno un po' difficile. È stato un anno un po' complesso, ma come di prassi questa volta ancora non abbiamo cominciato, ma spero di avere presto qualcuno che ci racconterà com'è il 2014, come sarà il 2014 e che cosa ci riserva dal punto di vista astrale. Vediamo se ci riusciamo anche quest'anno a portare qui su questi microfoni, in questo luogo, in questa radio, Radio Alma, che è sempre con voi, il nostro esperto di influssi astrologici, di influssi degli astri su di noi, sulle nostre vite. Beh, però intanto magari qualche evento però già sta succedendo, no? Sicuramente, e già vi dico una che mi ha proprio, mi sta, come si dice, titillando la fantasia, si dice? Ulla, titilla le papille gustative del pensiero. Esatto, si tratta di una esposizione degli oggetti con cui abbiamo creato, o inventori hanno creato un'illusione ottica prima dell'età dell'era del cinema. Quindi si tratta di tutte quelle invenzioni, di lanterne magiche, ovviamente, ma anche delle cose di cui mai ho sentito, come il fenachistiscope. Fenachistiscope. Fenachistiscope. Che che cosa sarà? Cioè, secondo, cioè, è tutto molto interessante, perché comunque anche nei vecchi tempi la gente era altrettanto affascinata dai, dalle immagini che si muovevano, che si rendevano nello spazio, oggi diremmo 3D. Però che dovevano comunque accontentarsi di possibilità tecniche molto più ristrette rispetto ad oggi, e noi attraverso questa bellissima esposizione potremmo anche scoprire quali erano questi mezzi fantastici. Quindi c'è questa esposizione che si chiama Ombre e Laterne, la magia dell'era prima del cinema, che si tiene addirittura nella Maison Autrique, che dovrebbe anche essere una casa bella e decente che vale la pena comunque gettarci uno sguardo dentro anche senza un'esposizione, e che si trova su Chaussée de Hacht 266 a Schaerbeek, e questa esposizione è aperta fino al 26 gennaio, quindi vi dovete proprio sbrigare. Eh sì, perché ormai, se ben capisco, era una mostra che già da un anno, è quasi un anno che è aperta, quindi sì, noi stiamo proprio gli sgoccioli. C'è sfuggito, succede. C'è sfuggito, anche se in realtà mi viene in mente, mentre parliamo di ombre, sto parlando delle ombre della caverna. Della caverna? Sì, i filosofi, le ombre, il mondo delle idee, l'iperuranio, la riflessione, nel mondo delle idee... No, va bene, non importa, non parliamo di filosofia, non entriamo, non facciamo questi paragoni, però insomma l'idea dell'ombra c'era già molto, molto prima che ci fosse addirittura il primo concerto, il primo episodio di Lanterna Magica, anche se parlando di ombre, beh, noi conosciamo tutti le ombre cinesi, io dubito che le ombre cinesi siano recenti, credo che le ombre cinesi come fenomeno, insomma, abbiano... siano legati ai primordi, insomma, io credo che nel primo momento che è stato appiccato e acceso un fuoco qualcuno si sia reso conto che c'erano delle ombre che venivano proiettate, e se qualcuno ha trovato un fuoco o ha messo un fuoco vicino a una parete, beh, si è reso conto che poteva cominciare a giocare, e quindi credo che da lì comincino le ombre, quindi il gioco delle ombre, finché si arriva appunto al cinematografo, che è molto molto più lontano, e però non lo so quanto di più stimoli la fantasia, non so dire se stimoli di più la fantasia le ombre o se stimoli di più la fantasia il cinema. Beh, su questo potremmo aprire un capitolo da discutere fino a notte fonda, perché dipende proprio dal tipo di cinema che si fa. Cioè, io ci scommetterei che comunque il cinema cosiddetto popcorn comunque è... molto spesso ti dà il piatto già fatto, quindi tu con la tua fantasia non devi proprio compensare niente, perché tutto ti è servito nella sua perfezione visiva, che sicuramente come esperienza estetica può anche essere molto interessante, però magari non per la fantasia. Già, la fantasia, però la fantasia che è la fantasia di qualcun altro che viene servita. Quindi magari c'è la fantasia, ma non c'è la cooperazione testuale, e qui annunciamo qualcosa di cui parleremo dopo. Non c'è la cooperazione testuale di cui parlava Umberto Eco, che è stato quello che con Lector in Fabula, insomma, ci ha insegnato, ci ha aperto la via alla cooperazione testuale. Quindi magari nel cinema la cooperazione testuale è inferiore, ma qui non vorrei entrare nel pantano, perché già sento che mi sto impantanando e potrebbe essere molto difficile condurre a termine un discorso del genere solo per cenni, quindi lanciamo solo il sasso ma senza neanche farlo arrivare all'acqua, quindi non creerà alcuna onda. E però ne approfitto invece, perché oltre a quello che hai detto tu c'è anche una cosa che a me piace moltissimo, e sono le Django Follies, che ormai sono al 20° anniversario e che si sviluppano fino al 31 gennaio 2014, hanno già cominciato il 14 gennaio, quindi pochi giorni fa, una settimana fa, e dureranno fino al 31 gennaio. Django, che tutti ormai conosciamo, Django Reinhardt, e a tal proposito vorrei ricordare un bellissimo CD, un CD che a me piace molto, che si chiama Stringology, è un CD jazz, è stato composto da Roberto Colombo, un bravissimo jazzista poco conosciuto magari al di fuori dell'Italia, o meglio non ha raggiunto il grande pubblico, però chi si intende, chi conosce la musica jazz sicuramente conosce il chitarrista Roberto Colombo, che ha fatto uno studio preciso su Django Reinhardt e ha scritto, appunto, ha composto questo, in onore di Django, questo suo primo album Stringology, a cui ne sono seguiti altri, ma secondo me il primo era proprio quello che aveva così il gusto della novità ed era molto bello, per cui insomma se andate a vederlo cercatelo, Stringology è veramente una chicca. E diciamo che Django ha realizzato qualcosa che può essere, insomma, che pochi possono eguagliare. Intanto ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Django suonava solo con due dita, mentre abbiamo cinque su una mano e quattro che possono girare sulla tastiera, a volte anche cinque. Beh, lui suonava solo con due a causa di un incidente che aveva avuto, di un problema che aveva avuto alla mano, e ha creato un nuovo genere musicale che si chiama Hot Club Jazz o Swing Manouche. Era un virtuoso con una percezione eccezionale del lirismo, dell'equilibrio e della struttura della musica. Il suo modo originale, intemporale, cioè senza tempo, di mescolare gli elementi del jazz dell'epoca è degno veramente di un genio. È considerato uno dei grandi riformatori della musica del XX secolo. Però noi di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando comunque di un grandissimo personaggio, e questo è il festival non è tanto che un modo per consacrare e rinnovare il ricordo di questo grande personaggio. Le Django Folie 2014 si svolgono un po' dappertutto in Belgio, quindi non è solo limitato, anzi, anche perché, se ben ricordo, il suo luogo di nascita non preciso dovrebbe essere Liberchy, quindi dalle parti di Charleroi, e il luogo non è preciso perché non è nato in una casa, ma è nato in una carovana. Quindi è nato da genitori girovaghi, quindi è nato in qualche parte, in qualche luogo dalle parti di Bercy. Io ho cercato di andare a trovare la sua casa, ma in realtà di Bercy ho trovato solo un monumento. E vabbè, è così. E quindi vi invito ad andare a vedere qualcuno di questi concerti che si tengono in onore di Django Reinhardt un po' dappertutto in Belgio, e potete vedere che cosa ci vi resta da vedere fino al 31 gennaio sul sito www.giancofollis.be. Ecco, quindi c'è sempre una chiave, C'è sempre una chiave, c'è sempre un www da visitare, e vabbè, e questo è giancofollis.be. Ma era un po' per ricordare quello che succede, perché in realtà in Belgio non succedono molte di cose, ma tutti conoscono Django Folie, il 20° anniversario non è per niente. E direi che facciamo il nostro segno e potremmo cominciare, invece, se non abbiamo nient'altro da dire, cioè, o c'è qualcos'altro. Cioè, mentre aspettiamo la chiamata, comunque vi presento molto velocemente un altro evento che di nuovo mi titilla la fantasia, che è il Brussels Ice Magic, quindi delle sculture di ghiaccio che si presentano anche a Bruxelles, che già non so come faranno perché non è che fa così tanto freddo. E in effetti cioè, ci saranno delle bellissime sculture di ghiaccio ispirate al mondo del fumetto in un paviglione isolato termicamente, quindi potete visitarli fino al 9 febbraio sulla Place de Palais a 1000 Bruxelles. Quindi cercate pure l'evento che potete visitare, comunque anche, cioè, c'è anche una bella apertura sabato e domenica dalle 11 fino alle 23 della notte, cioè dai, non è male. Quindi potete visitare, potete vedere, secondo me è molto interessante. E ce n'è un altro che è altrettanto un po' titillante, che è una esposizione che si chiama The Art of the Brick, che invece sono piuttosto delle creazioni fatte tutti da Lego, anche quello molto interessante, quindi potete vederlo fino al 21 aprile, avete ancora il tempo, e potete consultare il sito www.expo-artofthebrick.be per più dettagli. Bene, grazie infinite per queste notizie sull'agenda culturale di Bruxelles. E beh, allora mi sa che forse fra un po' avremo in linea anche la nostra ospite, Cristina Bove. Beh, Cristina Bove, come dicevamo all'inizio, è già stata così intervistata da questi microfoni l'anno scorso. E l'abbiamo conosciuta l'anno scorso come poeta. E suo libro, il libro che aveva pubblicato era Mi hanno detto di Ofelia. E invece il libro di quest'anno è un po' diverso. Il libro di quest'anno, qualcosa che ha scritto, è Una per mille. Allora, io sono estremamente curioso di sentire cosa ci dice Cristina e che cosa ha prodotto in quest'anno. Vediamo se ci risponde al telefono. Cristina, ci senti? Abbiamo qualche problema di comunicazione. Vediamo se riusciamo a risolvere il problema di comunicazione con Cristina. Come sapete, queste radio, la nostra radio è una radio che cerca di sopravvivere, nonostante sia povera di mezzi, ma almeno è ricca di idee e di contenuti, o almeno è quello che cerchiamo di fare da ormai un bel po' di anni. 2014 credo che sia l'anno numero 7, non vorrei sbagliare. Io non conto più, la matematica non è il mio forte. Non sai contare? È quello che stai cercando di dire? Sì. Cristina, mi senti? No, non ce la facciamo ancora, stiamo ancora cercando di prendere contatto. Cosa possiamo dire intanto di Cristina? Possiamo dire che è conosciuta soprattutto come poetessa e vive a Roma dal 63, anche se è nata un po' di anni prima del 63. Ha cominciato da piccolissima a disegnare, a nutrire la passione per la lettura e poi si è dedicata alla scultura e alla scrittura. Come si diceva, negli ultimi tempi si era espressa soprattutto in poesia ed è, lei si sente testimone del suo tempo e della sua esistenza. Di se stessa dice questo: credo nella libertà e nella giustizia. Penso che il rispetto della diversità sia un valore fondante tra gli esseri umani e ne sia inestimabile ricchezza. Sono alla costante ricerca di un significato in questo infinito mistero in cui mi sento immerso, ma non mi faccio più domande inutili. Amo la vita, i miei cari e tutti gli esseri umani dal cuore buono e dalla mente aperta. Considero la poesia un linguaggio universale, l'esperanto dell'anima. Cristina, ci sei? Buonasera. Ciao Cristina. Buonasera a tutti e buonasera a tutta la redazione. Grazie infinite. Allora, come stiamo in questo 2014? Come abbiamo iniziato innanzitutto il 2014? Bene, grazie. Spero anche per voi. Sì, noi abbiamo cominciato bene il 2014. Speriamo che sia un anno in cui ci porti sempre delle cose belle, delle cose nuove, delle novità, perché credo che sia parte dell'essere umano, dell'essere umani, quello di tendere sempre. Come io sono un fan del romanticismo, il mio, è quello che mi piace di più, è lo streben, il tendere verso qualcosa. Bene. Allora, Cristina, come forse saprai, oggi non c'è purtroppo Neridì, quindi l'intervista la facciamo io e Fiordalisa. Siamo particolarmente felici e anche, devo dire, un po' emozionati, perché noi ci eravamo sentiti l'anno scorso con Mi hanno detto di Ofelia, ma quest'anno c'è qualcosa di nuovo. Di che cosa si tratta? Di un romanzo autobiografico. In parte, c'è la mia vita sicuramente dentro, ma ci sono anche tante altre vite di altre persone, altre donne. Ho avuto una vita piuttosto movimentata. È comunque un'autobiografia particolare, perché ha una struttura particolare anche il romanzo stesso. I capitoli sono suddivisi in una maniera leggermente diversa dal solito romanzo. Si potrebbe leggere anche capitolo per capitolo come racconti a parte, però è consigliabile leggere dall'inizio, perché comunque c'è una conseguenzialità temporale. Io purtroppo non ho avuto la possibilità di leggerla tutta, però quello che mi ha colpito è proprio questa, che quando uno comincia a leggere, il romanzo sembra di funzionare come la memoria, cioè allo stesso tempo abbiamo una coscienza del personaggio a un anno, a sei anni, a molto più in là nella sua vita. Cioè, questa tecnica di dove viene? Non è una tecnica, perché io scrivo in una maniera molto spontanea. non mi riferisco ad altre scritture se non quelle che, avendo letto molto, in qualche maniera mi sono rimaste appiccicate dentro. Ma non so, credo che anche il fatto stesso di scrivere poesia abbia un suo rilievo, perché come mi hanno detto nelle recensioni che ho avuto, la trovano una prosa molto poetica. Basta leggere l'incipit di questo libro, ve lo leggo per tutti i lettori, una delle prime, la prima parte di questo, e tutti lo riconosceranno, tutti. L'uomo nero. L'uomo nero era il carbonaio dal fondaco di via San Gregorio Armeno. Viveva nella stalla con i cavalli, alti e neri, sempre a masticare biada con la testa nel sacco. Lui invece il sacco lo portava sulla testa, a fargli da cappuccio fino alla schiena. Sua moglie, guercia e butterata, vendeva il ghiaccio tritato in un grottino nel quale si scendevano 3 gradini. Guercia anch'essa. Ecco, questo pezzo, questo incipit, questa parte di che inizia il capitolo dell'uomo nero è bellissima. Trovo che sia veramente estremamente immaginativa, e quando tu mi dici che c'è della poesia nella prosa è assolutamente vero. Io credo che ci sia buona parte, che sia proprio tu, Cristina, la poetessa Cristina, che entra in questa parte, che in questa descrizione dell'uomo nero, l'uomo nero che poi fra l'altro è proprio una cosa da bambini. E questo uomo nero in realtà che cosa rappresenta? Beh, è uno dei personaggi più curiosi della mia prima infanzia. Era appunto come lo descrivo, si occupava di vendere il carbone, perché allora funzionavano ancora i fornelli a carbonella. Ricordo che mia nonna mi ci mandava a comprarla qualche volta, anche se avevo 5-6 anni e scendevo giù, oppure quando andavo a comprare il ghiaccio per la granita e guardavo questa donna che aveva tutti questi buchi sul viso e con un occhio opaco, uno degli occhi doveva essere cieco, e a me faceva anche un po' paura in verità tutti e due i personaggi, però era più forte il desiderio di poi mangiare la granita. Come tutti i bambini c'è qualcosa che ci porta vicino, qualcosa che, una luce che poi ritorna. E allora consentimi una domanda: perché sei passata dalla poesia alla prosa e perché un'autobiografia? Ho sentito l'urgenza di scrivere qualcosa per non essere vissuta inutilmente, per lasciare qualcosa quasi per rispetto alla mia esistenza, che è stata lunga e piena, ricca di tante cose belle, brutte, belle, ma tutte molto, che ho visto tutto con molta attenzione, molto spirito di osservazione su me stessa prima di tutto. Poi la bellezza di questi 4 figli che ho, a cui mi sembra di lasciare qualcosa di buono, non lascio loro eredità economiche, così. Ho creduto di lasciare una bella eredità in questo modo qui. Questo è bellissimo quello che stai dicendo, però allora mi chiedo che cosa sentivi mentre lo scrivevi, cioè era un testamento emotivo o un testamento di valori? No, guarda, non mi sono posta questo problema, anche perché essendo una che naviga parecchio, che si esprime molto in informatica, sono partita come se conducessi un blog. È come se scrivessi giorno dopo giorno qualcosa che mi veniva in mente, che la memoria registrava. E, anzi, è cominciato quasi per gioco con alcuni amici lettori, ai quali chiedevo se interessasse quello che stavo scrivendo. Ed erano tutti entusiasti, per cui a un certo punto ho continuato. Poi c'è stato un editore che ha ritenuto opportuno pubblicarlo, quindi non ho più pubblicato sul blog e ho continuato a scrivere così, e poi finalmente questo libro ha visto la luce. Per questo dico che è una struttura alquanto originale, credo, mi sembra, proprio perché mi sono riferita a questi modelli. Sì, anche perché mi sembra, ma adesso chiedo l'aiuto anche di Fiordaliso su questo punto, che ci sia, che sia una scrittura molto libera, sì. Mi pare, sia sull'uso dei tempi che anche sull'uso dei personaggi, di chi parla e dell'età di chi parla. Sbaglio, Fiordaliso? Ah, sembrava anche a me, è quello che, cioè, secondo me bisogna comunque leggere tutto il testo per capirlo, quindi per capire anche i cambiamenti di punto di vista, cioè ci sono dei racconti in prima persona, ci sono altri racconti in terza persona, io purtroppo non mi sono abbastanza addentrata per poter dire ma perché, quindi chiedo perché. Sì, perché in effetti... Io mi sento spesso non una sola persona, mi sento tante, ciascuna che ha registrato a modo suo un ricordo, così, infatti è come se li vedessi da diverse angolature, i ricordi, e poi ho fatto mie anche molte vite di quelli che mi sono state accanto, di donne soprattutto, ma anche di uomini. Ho cercato di ricondurre a me anche le loro esperienze, come se facessi da filtro all'esperienza umana, che è comunque una grande avventura, no? La nostra esistenza. Poi mi sono resa conto, mentre scrivevo, man mano, di aver vissuto tanto, ma veramente tanto. Tante esperienze, tante avventure, tanti traslochi, tanti viaggi. E non avrei immaginato... Sono sorpreso, ho detto cavolo, ho 70 anni, quanto ho vissuto? Hai sentito, proprio come, è bellissimo quello che dici, quanto ho vissuto. Hai sentito la densità dell'essere, del vivere. E allora io ti faccio questa domanda. In che cosa hai sentito che la tua vita, o in quali momenti hai sentito... che la tua vita era più densa, momenti che hai descritto, e se ci sono stati momenti in cui adesso magari ti rendi conto che erano in realtà momenti meno densi, o forse ci sono stati anche momenti vuoti. Io credo che le tre esperienze più importanti siano state quelle del suicidio, che continuo a definire un suicidio non riuscito e non un tentato suicidio, poiché mi sono lanciata dal quarto piano ed ero delusa della vita, già allora mi pareva di non avere amore intorno, era stato un momento molto molto drammatico per me, e da quell'esperienza comunque sono, diciamo, rinata in un'altra maniera, ho affrontato diversamente la vita, mi sono sentita anche un pochino più forte e quindi anche più capace di pretendere da me e dagli altri qualcosa di più. Poi mi sono sposata, poi ho avuto 4 figli, sono stata fuori tanto tempo, poi l'altra esperienza molto determinante è stato il cancro. Anche da lì ho dovuto affrontare tutta la serie di cure e cose che comporta, e la paura, è l'aver vissuto 4-5 anni con la paura che ogni minimo sintomo fosse la metastasi in agguato. Comunque anche da quell'esperienza ne sono uscita in una maniera anche particolare, perché ho avuto un tipo delle visioni quando sono stata in coma, e questo mi ha dato ulteriore forza per andare avanti. E l'altra esperienza è stata quella di una decina di anni fa, che stavo comunque morendo ancora, e anche lì è stata un'esperienza veramente, non saprei descriverla, perché poi io non sono una credente o così, comunque ho vissuto un'esperienza particolare, ne parlo nel libro, allucinazione, cosa fosse, non so, comunque mi ha dato ulteriore forza. In momenti in cui avevo quasi desiderio di lasciar perdere tutto, perché vivere poi alla fine diventa anche difficile se ci sono difficoltà fisiche, no? Certo. certo, assolutamente. Diventa difficile vivere, però tu che hai anche vissuto questa difficoltà del vivere. Io non ti sento quasi più. No, dicevo, tu che hai vissuto questa difficoltà del vivere. Sì. Credi che ci siano nelle difficoltà fisiche delle nuove dimensioni che si possono scoprire o no? Sì. Sì, sì, lo credo fermamente. Nuove dimensioni, ma anche psichiche, non solo fisiche. E si scopre anche di non essere soltanto, perché faccio entrare la faccenda di aver scritto come se fossi più di una, perché si vive come in diversi livelli, su diversi piani. Non so spiegarlo bene. Credo che sia chiarissimo quello che stai dicendo. Dicevo, è molto chiaro che il fatto che dici che si vive su vari livelli. Scusa, ti ho interrotto. Sì. Che non riuscivo più a spiegarlo. E su vari livelli, varie dimensioni. A volte ho la sensazione di essere una me che sta momentaneamente qui con un'altra me che è in un altrove, circondata da bellezza, soltanto bellezza assoluta. E questo mi aiuta molto a vivere. Non la definirei una schizofrenia, perché sono una persona piuttosto pacata, e quando si riuniscono le due, le tre o le mille, riesco a dirigerle, ecco. E allora è da qui che viene il titolo del libro: dall'uno nessuno e centomila, dalle mille sfaccettature che abbiamo. Sì, sì, penso che tutti noi esseri umani siamo così. E in queste mille persone, queste mille Cristine che hai vissuto e che hai visto, ce n'è stata qualcuno, c'è stato qualche episodio che, scrivendo, dopo averlo scritto, sul quale ti sei fermata a riflettere e hai detto: beh, questo non me lo ricordavo, questo non lo sapevo, questo, su questo non ci avevo mai pensato. Che cosa? Sì, sì, è accaduto. Sì, sì. Su che cosa? Mi sono sorpresa. E c'è un episodio particolare su qualcosa? Scusa. No, non sono problema. Rompo, scusa. Chiedevo semplicemente se, quando tu mi dici sì, mi sono sorpresa, beh, ci puoi raccontare qualcosa di più? Mi sono sorpresa soprattutto a scoprire la mole di avvenimenti che avevo attraversato, le difficoltà che sono riuscita comunque a superare. Ero sorpresa perché non credevo di essere così forte mentre le vivevo, queste esperienze. Anzi, ho sempre vissuto con la sensazione di non essere adeguata, di fare una gran fatica. Poi alla fine mi sono sorpresa appunto a rendermi conto che poi non è stato così, ce l'ho fatta. Anche bene, credo. Tra l'altro, una cosa, ecco, forse, che mi è venuta molto più chiara scrivendo, come sono riuscita anche a coltivare la mia parte artistica, malgrado avessi cresciuto quattro figli da sola, completamente da sola, e cercando appunto, trovando il tempo nei ritagli, quando dormivano, soprattutto di notte, facevo tante cose, ho fatto anche cose grandi, come una scultura enorme che sta in un albergo a San Benedetto del Tronto, in un grande albergo. Scusami se sono un po' emozionata. No, grazie invece per questa tua emozione. Non so, è come quasi non fossi stata io a vivere tutto ciò. La tua emozione passa attraverso l'aria e arriva fino in radio, quindi adesso tocca a me sentirla e me la sento tutta. Perché quello che stai dicendo è scusami, forse vado un po' troppo in là, però mi sembra un linguaggio universale. Sì, sì. Mi sembra che tu stia parlando alle persone, all'uomo, alla vita che c'è dentro ogni uomo. È molto vero questo. Io mi sento molto partecipe della vita degli altri e ho scoperto di amare e rispettare ogni essere umano con tutte le defianze, con tutti i difetti. C'è una parte di me che vorrebbe solo amare, però è ovvio che c'è anche l'altra parte che deve prendere distanze, perché c'è anche della cattiveria, ma le persone che fanno delle cattive azioni o le persone cattive a me fanno pena. So che in qualche maniera, forse è puerile, dovranno scontare in altre vite forse, o chissà come, questo loro non essere allineati all'amore. Chissà, forse non riusciranno ad avere, nel momento in cui tireranno le somme, la coscienza o la consapevolezza della pienezza. Forse è questo che pagano. Penso di sì. Quindi, se posso, una domanda ancora più personale di prima, ancora più personale di quella che abbiamo fatto fino adesso. I tuoi figli avranno letto questo tuo scritto? Qual è il messaggio che hanno trattenuto? Forse ce ne sarà uno in particolare che hanno trattenuto, magari diverso. Ce n'è uno diverso, che è bellissimo, che mi ha scritto uno dei miei figli come commento alla pagina che ho aperto per il libro su Facebook, che è talmente bello che mentre lo leggevo piangevo. Poi tutti gli altri si sono uniti dicendo che loro avrebbero detto esattamente le stesse cose. Ed è se mi permetti, è una cosa bellissima che un figlio riesca a dire queste cose a sua madre, alla propria madre. E nello stesso tempo mi ha dato il quadro esatto di come non avessi poi sbagliato proprio tutto come madre. E riesci anche a dircelo qual è? Sì, ve lo potrei anche leggere volendo, è solo che sto armeggiando con il mouse che non mi permette, non so perché, di farmi accedere a... Aspetta, forse ci riesco. Con calma. Eccolo qui. Ah, bene. Vuoi che te lo legga? Grazie, sarebbe molto bello. Allora, ora tutto è più chiaro. Comprendo finalmente e facilmente il profondo amore che ho per te. Non è più solo istintivo e naturale, non è più di solo cuore e anche di ragione. Ti amo, sei parte di me, sono parte di te, non potrà mai essere diversamente. Quella sensazione di averti sempre vicina. Ti porto ovunque nel mondo. Le migliaia di fotografie sono prove della mia felicità, che vorrei mostrarti fiero e contento per dirti sempre che è tutta opera tua, che tutto l'amore nella mia vita altro non è che la proiezione e prosecuzione del tuo amore, non solo materno, sarebbe semplicemente naturale, ma dell'amore universale. Il tuo amore per me, per noi, per gli altri, per il mondo intero, per la natura, per l'arte, per la conoscenza, per il tutto, sia naturale come il battito del cuore e il respirare. Questo modo di amare è innato, non si può imparare. Nessuno te l'aveva insegnato, nessuno te l'aveva mostrato, è sempre stato parte di te. Ti ringrazierò per tutta la vita e oltre, per avermi insegnato ad amare, per avermi dato una parte di te così grande. Io non sono altro che una tua proiezione nel mondo e vado e diffondo. Continuerai tu, a me, a tutti. Sei la mia religione, sono cristiano, seguace di Cristina, mia madre. Ha finito. Bellissimo. Beh, posso capire. È bello, vero? Posso capire l'emozione. perché, perché l'hai anche trasmessa, veramente. Scusami se l'ho detta male, ma ero proprio emozionato molto. No, l'hai detta benissimo, veramente l'hai detta benissimo, benissimo. Meglio di così non si poteva. Leggere e trasmettere. Io sono molto fiera. E ci credo, io lo sarei al posto tuo, e moltissimi lo sarebbero al posto tuo. Beh, insomma, è un orgoglio, sì, è una pienezza incredibile, sì. Incredibile pienezza. Ma non è però soltanto orgoglio, sai, è anche, sapete, perché siete lì due, non sei solo, è sapere che in qualche maniera non si è sbagliato. Io come madre, non sono nata madre ovviamente, e tra l'altro ho avuto anche una madre non troppo presente, e, però sentivo come se ci fossi nata, che tutti gli esseri umani avevano bisogno di amore e rispetto, e quando nascevano da me non cambiava la cosa, erano comunque degli esseri a sé stanti che avevano diritto all'amore e al rispetto. Beh, è una puntata molto difficile questa, e arrivano continuamente dei macigni dall'altra parte dell'etere. Scusami. Arrivano continuamente dei macigni dall'altra parte dell'etere. Stai dicendo delle cose molto profonde. No, molto profonde. Non è facile. Che bisogna sempre fare i conti con quello che dici. Bisognerebbe leggerlo. Sì, e uno deve fare i conti con quello che dici, quindi io, visto che anche ormai il tempo si sta esaurendo qui in radio, mancano pochissimi minuti, però volutamente non volevo interrompere questa trasmissione, non volevo interrompere questo colloquio con te, proprio nel senso etimologico della parola, del parlare insieme. E ne sono molto felice. Ma poi in effetti non ci interrompiamo mai, perché siamo tutti collegati. Sì, è vero. Interrompiamo le parole, ma non il flusso delle emozioni. No. Io non so che dire, io devo solo dire grazie infinitamente, Cristina, per queste parole che ci hai dato. Io ringrazio voi. È stato veramente molto bello. Io vorrei chiederti se ci sono delle cose che bollono in pentola prima di chiudere. Sto scrivendo ancora. Può darsi che prima o poi uscirà fuori qualche altra cosa. Beh, in quel caso noi saremo sempre molto felici, come lo siamo stati oggi, di averti qui con noi e di parlarne ancora. Io vi ringrazio tanto, Fiordaliso, te, Mari, anche se non c'è, e tutta la redazione, e anche gli ascoltatori. Sì, gli ascoltatori che questa sera hanno avuto una chicca. Abbiamo cominciato 2014 in un modo diverso, forse non è un caso che questa sera ci sia stata ai microfoni con noi Cristina Bove, che vi ricordo ha scritto il libro Una per Mille, e che l'editore è Smasher. Io non so, ai nostri ascoltatori avranno sicuramente la curiosità, ed è una curiosità che io condivido pienamente, perché è veramente estremamente interessante, è una carica di energia incredibile. Cristina, ti rinnovo i miei saluti per un 2014 pieno di salute questa volta. Anche io vi saluto tutti. Grazie ancora. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ecco, ho sentito il clock della fine dell'intervista con Cristina e io non mi ero accorto, devo essere sincero, Fiordaliso, non me ne volere, non mi ero accorto che siamo praticamente alla fine. Vi racconterò del mio libro la prossima volta. Ma non possiamo nemmeno sapere il titolo del libro. E comunque saremmo restati nell'ambito delle emozioni profonde. Ulla. Neanche il titolo non ci vuoi dire, o l'autore o il titolo, insomma qualcosa. Ma Khaled Hosseini. Khaled Hosseini, vabbè, Khaled Hosseini, e chi non si ricorda. Certo, comunque, Khaled Hosseini mi pare che parli di aquiloni. Ma questa volta non si parla di aquiloni, ma di mille splendidi soli, però la prossima volta. Beh, non è che se uno non fa volare un aquilone guarda per terra, cioè deve guardare comunque verso l'alto. Certo, se ci sono delle nuvole non vede il sole, però insomma, verso l'alto c'è sempre la speranza di vedere il sole. Io ormai veramente siamo...